Bentornati Old Time Rock and Roll, 22esima puntata. Eh sì, come vola il tempo. Mamma mia, veramente. Siamo sempre noi. Io volevo dire una cosa. Dimmi. CVD, non so cosa vuol dire. Come volevasi dimostrare. Ok, vabbè. Oggi è mercoledì, siamo in diretta e fuori è brutto tempo. Vero. Purtroppo. Che strano. E il Bindi non c'è. E il Bindi non c'è. No, vabbè, stranamente, eh? No, vabbè, è un viaggio di lavoro. A Barcellona. Io pensavo fossi tornato ieri, tra le altre cose. No. Cioè, dico, vabbè, torna stasera. Nanno, hai chiuso il portone? Faccio sì. Sì. Ma no, vabbè, no, deve arrivare il Bindi. No, deve arrivare Jenny. Jenny. Deve arrivare il Bindi. Dove fantastico. Vado in fondo alle scale, il nanno si affaccia, fa: "Patru, il Bindi a Barcellona". Va bene. Io pensavo fossi tornato ieri. No. Stasera. A Barcellona. Insomma, allora io lascerò per un'ora la parola davanti a me a Luke e a Nanno, sì, perché parleranno, sicuramente vorranno parlare per 60 minuti di Fiorentina Napoli. Direi che si è già detto abbastanza. Sì, contrario, noi da trasmissione quali siamo, ovvero serie e signorile, non ne parleremo affatto, visto che ne sta parlando tutto mezzo mondo. Certo. E non è una cosa che ci riguarda, anche se io e Valerio in prima persona purtroppo ci siamo stati. Ci vorranno chiamare come testimoni oculari, insomma. Ci sera. Su 50.000 persone l'hanno che poi io in realtà non me ne sono accorto. Non mi sono accorto di niente. Dormivo. Sì, io dormivo. Io me ne sono accorto un po' di più, però. In realtà dormivo. Cioè, io ho visto solo quello che è successo dentro lo stadio, quello che è successo fuori, niente. Beh, chiaro. Che è peggio, guarda. Sì. Oddio, fra tutte e due non saprei cosa scegliere. Ecco. Comunque, allora quindi non parleremo di Fiorentina Napoli, ma parleremo di calcio giocato di Fiorentina Sassuolo, vuoi parlare? Non lo so. La partita più combinata della storia. Cos'è Fiorentina Sassuolo adesso? Si è perso 4-3 col Sassuolo in casa. Sì, in casa. Oh, ragazzi, so cosa vuol dire in casa. Ma si dovevano salvare sicuramente, gli si è regalato. Io direi di portare avanti la puntata. E io ti finirei con questo Ale Viola. Ecco. No. C'è compleanno oggi? Uno. Un compleanno, quindi vabbè, parliamo del nostro buon caro e vecchio rock. Anche oggi un compleanno, la quinta parte della storia del rock oggi. La quinta parte della storia del rock di quali anni? Del 1902. Guarda la casualità. Siamo nel 1970. Compie gli anni oggi, si chiama Jenny. No. No. Ah, io ci ho guardato e ho detto Jenny, non era Jenny. No. Non era. No, comunque, sto scherzando, la piccola. No, no, no, no, lui è Matthew Henders. Più tardi ti spedirò una pallottola d'oro a casa, però guarda, finché è d'oro parliamo, allora, a me va bene, Se la serie accetto di morire, No, vabbè, però insomma, le minacce ben volentieri a questo punto, voglio dire. No, no, un biondo? Sì. Comunque, lui è Matthew Henders. Chi l'ha scelto Jenny il nome, eh? Gli l'ha scelto lui. Di chi? Di chi? Questo compleanno. Sì, naturalmente sì. Noi andiamo in onda per volere di Jenny. No, ha deciso lui. Ha deciso tutto lui. Non so neanche chi sia, non ho seguito la partita. Ma lo conoscono tutti, è famosissimo. Vabbè, comunque, lui è Matthew Henders, tre volte l'ho detto, fa tre anni quindi oggi. È come oggi. Paolo. Auguri Paolo, auguri Paolo. Ricordiamo il nostro amico che compie gli anni ogni sabato. Lui è nato a Sheffield, non Paolo. Famosa Matthew squadra Henders. Dello Sheffield, Sheffield Wednesday. Sheffield United. Ma oggi non parliamo di calcio. Sì, vabbè, derby. Sì, derby. No, oggi. No, ho detto non parliamo di quello che è successo. Noi che parliamo di calcio. Ma stai scherzando, vero? No, cioè. Poi oggi manca il tuo amico nerd Bindo. Io ho anche la maglietta nerd. Oggi sei veramente il migliore. Ho anche la maglietta nerd. E poi ti spiegherò perché il significato di questa maglietta più avanti. Vai, vai, dopo lo voglio sapere. Poi mi devi spiegare cosa significa la parola nerd. Va bene. Immagino che sia un abbreviativo, ma voglio sapere. E oggi finalmente aprirò la mia rubrica All Nerd Rock and Roll. 10 ti minuti sento, di nerd. Ti sento carico, ti voglio far sfogare. Dai Jenny, dai. Andiamo, andiamo. Comunque allora, c'è Matthew che aspetta. Matthew, no, cioè, è un anno in ha più. Ha fatto un altro anno. Esatto. Ah, vorrei fare un appello, vorrei che Bindi libero subito. Subito. Trappolato a Barcellona. Faremo le magliette. Faremo le magliette commemorative. Non è giusto, tutti contro sì, Barcellona. Sì, guarda, vabbè, lasciamo perdere. Lui è nato a Sheffield. Trappolato al Pip Show. No. Bellissimo. La Sagrada Famiglia. Sì. Quando è una Sagrada Famiglia, bellissimo. Più o meno col Pep Shop, dai. No, vabbè. Vabbè. Oh, è sempre cultura, cioè, certo, dire, nessuno ne dubita. Punti di vista. Prego, Pat. Comunque, nato a Sheffield il 7 maggio del 1986. È un batterista inglese, membro del gruppo indie rock Arctic Monkeys. Lo conoscete voi? Sì, sì, sì, sì, sì. È voce di fondo di moltissimi pezzi del gruppo. Adora infatti cantare, come dichiarato in un'intervista. E qui la curiosità: si dice che divenne batterista degli Arctic Monkeys solo perché erano finiti gli strumenti a disposizione. Vabbè, fate voi. Di necessità virtù. Complimenti. Loro sono gli Arctic Monkeys con Teddy Picker. Tell the fucking punchline before you have told the joke. I'm sorry, sunshine. getting thicker. Let's have a game on a teddy picker. Not quick enough, can I have it quicker? Already thick and you're getting thicker. Arctic Monkeys. No, Patro, ma non parleremo di Fiorentina Napoli. No, no, ma no. Stai scherzando? Fuori onda possiamo. Ma no, ma fuori onda possiamo. Andate via la musica. Allora, oh, perché l'hai visto quello là? Allora, ora guarda, ti farò una critica crudelissima. Dimmi. Te sei come crudissima. Quelli, crudissima. Te sei come quelli che dicono "No, non bisogna parlare di questi fatti perché li accentuiamo". Ma poi te, già dicendo così, ne parli. Allora, ma non, no. Sì, io non ho detto non parlatene perché altrimenti accentuiamo e tutto. Ho detto basta. Punto. Vabbè, ma è già la terza volta, schifo. Ogni volta ridai spago a noi per parlare. Va bene. Secondo me torneremo a parlare di calcio violento quando ci sarà la finale, la Supercoppa Europea a Brasile. Agosto. No. Quella la fanno a Pechino tanto. Vabbè, ma si sa. È geni ovunque, anche a Pechino. Andiamo avanti. Luke. Sì, stavo leggendo e stavo articolando. Allora, iniziamo articolando le articolazioni disarticolate. Innanzitutto erano gli Arctic Monkeys con Teddy Piker. O Pitcher, come direbbe Mike. Allora, ricordiamo comunque metà di questa puntata sarà parlata in spagnolo, visto che Bindi manca. Esta es una canzone scritta dal grande Tito Puente, musicista di Porto Rico, conosciuto nella Nueva York di Spanish Harlem. È la cerveza della No, vabbè, iniziamo a parlare della storia, precisamente di Santana, che esatto. Troviamo per la prima volta nel nostro cammino, se non erro. No, se era già no, trovato. No, sì. Per la prima volta nel 70, allora c'era Braxas un paio di puntate fa. E se gli dicevi per la prima volta nel 70, no, per la prima volta nella quinta parte, sì, va sì. Bene. Alle viola. Comunque, sempre alle viola. È una canzone scritta dal grande Jenny Tito Puente, musicista di Porto Rico, conosciuto nella New York di Spanish Harlem. Il brano è stato reso celebre nel mondo rock dalla cover del messicano Carlos Santana per l'album Abraxas. Nella versione originale pensate che erano più evidenti le derivazioni cha cha cha e anche forti somiglianze con un brano degli anni 30 di Shao Lopez. Cha cha cha della segretaria. Che dico Serena? No, dai, ma io volevo, ragazzi, girare. Ma interrotto, guarda, ma interrotto. Ora, io faccio una foto e la metto sulla pagina. Guardate le cuffie del biondo. Cioè, rosso, cioè, rosso veramente fuoco, bellissime, sono fantastiche. Sì? Rosso fumogeno Jenny, direi. Sembri Balotelli, ma solo sua. Sembri da Maranello. Sì. Quasi. Ma avete interrotto sulla parola Scianciullo. Scianciullo. Cioè, io lo volevo. Ero arrivato gasatissimo per lì, ma avete smontato. Vabbè, Scianciullo. Santana prese il brano, aggiunse le chitarre elettriche, un organo Hammond, una batteria rock ed eliminò invece la sezione di ottoni. Ed in quel momento era nato il Latin rock. Perché tu sai cos'è un organo Hammond? È una donna che simula. No! Via la canzone! Come on. Oye, oh yeah, come va? Tana. Tana. Tana. Per me. Oh, che poi, cioè, stavamo parlando sempre della partita. Hai chiesto te, ora vero? Informazioni. Ma a sto punto mi voglio informare anche. Informazione legittima. No, no, anche, cioè, informazione, perché ragazzi, purtroppo io non, no, purtroppo. Prossima volta ci portiamo anche a te, Patro, dai. Sì, certo. Ok, vieni. Certo. Guarda che esperienza, dovresti fare. Non lo metto in dubbio, ma a me è proprio l'idea di rimanere. Se posso aprire una breve chiosa. Chiosa. Mi danno fastidio il vittimismo e quelli che additano senza sapere o senza interessarsi. Chiusa parentesi. Qui ci rientrano tutti, eh. Tutti. Poi dopo ti dico anche chi in privato. Andiamo avanti. Signori, buonasera, siamo sempre un time rock and roll. E andiamo avanti con la nostra storia del 1970 con What is Life, che il buon Patrum mi traduce in. Comunque, dicevo. Bene. È una canzone di George Harrison. What is life? Cos'è la vita? Cioè, un tema molto importante. Certo. Tra l'altro cosa. Dopo i fumetti. Dopo i fumetti di Spider-Man. Ovvio. È la traduzione in inglese di. Come si chiamava quella di Cocchi Renato? La vita è bella. Basta avere l'ombrello. Il maso la sa tutta, la sa, è incredibile. È bellissima con quelle sue cuffie da Maranello. Il balletto lo ricordi com'era? Anche il balletto. Con l'ombrello. Però questa What is Life è di George Harrison, secondo singolo estratto. Baby don't hurt me, com'era? Bravo, ecco quella. Ma quella è What is Love. Secondo singolo estratto dall'album All Things Must Pass per il mercato statunitense. Esso fu seguito dal fortunato My Sweet Lord. Per la registrazione Harrison si servì di un personale di musicisti prevalentemente britannici, molti dei quali già avviati con successo la carriera musicale. Originariamente come la Janis Band, pensata per Billy Preston, è stata prodotta da George Harrison e Phil Spector, come del resto tutto l'album All Things Must Pass. Che Valerio mi... Di cui apre la facciata B, questo singolo. No, ah no, è il significato. All Things Must Pass, tutte le cose prima o poi passano, penso. La cerveza della Maria. Pass filtrante, triangolo, capito? Una vaso di acqua. La base di acqua. La mettiamo tecnico? Muoio. Ci siamo? Come te pare? Quando sei incomodo, vai. I can't say. Sì. George Harrison. Bravo. What is life? Non What is love. No, What is love. La metteremo poi quella canzone. Ormai me l'avete fatta entrare. Ma non comunque, è appuntata, non è proprio appuntata pazza. Ma io devo spiegare perché ho questa maglietta nerd. Oh, ok. Allora, intanto descrivila perché all'ascolto non la possono vedere. Diciamo è raffigurato un soldato dell'impero di Star Wars. Non me lo ricordavo della, della quel giungla. Cadro. Ah, ecco, nella giungla. Jungle Fever. Perché questo? La prima, primo perché quindi ora tutti su Google immagini a cercare soldati impero della jungle. Ma perché? Primo perché basta, mettimi una base Star Wars. Fai sentire? Vai. Perfetto. Allora. Che stacco il mio. Fantastico. Grande. Allora, prima cosa perché sembrano tutte uguali queste basi, ma no, questa è di Star Wars. Non fatevi ingannare, questa è Star Wars. No, Star Wars. Perché? Ah, prima cosa perché è la prima maglietta che ho trovato nell'armadio. Ok. Seconda cosa perché è anche la prima stirata. Anzi, l'unica stirata. No, l'ho tutte stirate. Scusami se ti interrompo, ma fa molto nerd mettersi la prima cosa che trovi, giusto? Giusto. No, non proprio. Okay. Non se proprio. La prendi da il nerd ricerca. No. Se la prendi dal secchio del sudicio ancora di più. No! Ora fale. Postino. Comunque, questo perché? Perché qualche giorno fa era lo Star Wars Day. Cos'è lo Star Wars Day? È il giorno di Star Wars. Ah, sì, ho visto le foto a Roma al Colosseo. Esatto. Perché? Perché soprattutto hanno Luke sta frustrando la scaletta. Ok. Perché lo Star Wars Day? Perché qualche giorno fa hanno annunciato il cast e il sequel del settimo episodio di basta, Star Wars. Basta, dopo un pochino. Ma quanti ne hanno fatti? Sono 9. Basta. Per ora ne hanno fatti 6. Basta. I primi 3 sono quelli più recenti, nel 2000. Quelli più vecchi negli anni 80 sono il quarto, il quinto e il sesto. Sì, infatti, e ora faranno il settimo. Tu sei mio figlio. Ma scusa, una domanda. Ma uno che è andato a vedere il film negli anni 70 è iniziato dal terzo, dal quarto e dal quinto. Eh beh, è un po' come se avessero fatto i prequel poi negli anni 2000. Cioè anche ha visto gli X-Men. Capito? Hanno fatto 1, 2, 3 e poi hanno... Non so perché quello sinceramente. Non lo so perché. Però a me Star Wars piace però. Ma non X-Men 1 e poi mi fai il prequel. Lo capisco. No no, hanno fatto 1, 3. Hanno fatto 1, 2, 3 e poi dopo hanno fatto tutti gli spin-off. Hanno fatto Wolverine. Ah, X-Men stai Hanno sì, fatto sì, anche sì. Hanno fatto anche le origini. X-Men le origini, che è il prequel. Sì, che è il prequel. E ora fanno quello nuovo che non mi ricordo come si chiama. The Day of the Future Past. Sì, quella una cosa. Sì, che sarebbe il continuo di X-Men all'inizio. Però all'indietro. All'indietro, però. Cioè, il film lo guardi dai titoli di coda, capito? Titoli di coda, guardi. Comunque, era qualche giorno fa lo Star Wars Days, appunto, perché hanno annunciato il sequel, il cast del nuovo episodio, e soprattutto perché a Roma hanno girato al Colosseo una scena con i soldati dell'impero. No, veramente? Quindi, per i fans, i nerd di Star Wars, c'è in cima al Colosseo. No, esatto. No, c'era Obama, c'era. Comunque, l'architetto che lo portava a far vedere quello. Sì. Potere limitato. Comunque, no, per i fans Darth di Star Wars lo fa Obama in questo film, No, non credo. Buoni. Per i fan di Star Wars è una cosa pazzesca. Sì, a me piace milioni, normale, milioni insomma, e milioni. Come un film di fantascienza normale, insomma, ecco. Però per i milioni di fan di Star Wars è una cosa veramente allucinante. Cioè, okay. Dopo anni e anni, soprattutto per quelli fans degli anni 80, quindi dopo 20-30 anni, ritrovarsi il continuo dei film. Ok, e sono d'accordissimo, nel senso giusto, a me piace il cinema, piace il film, tutto eccetera eccetera. Io non eccetera. Sono proprio pazzo, è giusto, pazzo di Star no, Wars. Ma ne, però, cioè, a me tipo piacciono stare le opinioni piacciono personali, più che la storia piacciono molti personaggi. Voglio arrivare al succo. The source of the question, come direbbe Benigni. Of the polpa. Sì, of the polpa of the question. Polpa of the question. Why do you endorse this shirt? Per commemorare lo Star Wars Day. Ok. And you ask me, you tell me because you. Ok, mi dovevi dire come mai il significato della parola nerd. Ah, no, quello lo dico dopo. Ah, lo dici lo dico dopo. Adesso andiamo con la prossima canzone. Ti sei preso tutto lo spazio. Ovvio, okay. Che poi ritorna Jungle per l'appunto in questa canzone. Ma insomma, andiamo direttamente il disco. Sì, dai. Run Throughout the Jungle, i Creedence. Round Trog the Jungle, Creedence Clearwater Revival. Se vi, qualora vi fossero mancati, ve l'abbiamo riproposti. Canzone stranamente scritta da Jenny John Fogerty. Bravo, no, senza John Fogerty. Che poi ora, allora, chiudendo la parentesi, ma un camorrista che si chiama Jenny. Basta. Non entriamo nel basta. È un po' presunto Jenny, no? Nanno, stampato cos'è? Hai fatto uno screenshot di tutta la camera intera, hai fatto. A me mi è stata mandata così. No, te lo giuro. Assolutamente no, non te l'ho mandata anche così. Anche io ce l'ho così. Vedi? No, io ce l'ho così. Come l'altra volta che te l'avevi balorda e noi siamo a buona. Oggi si è invertito le cose, hai visto? Noi ci sa la ruota così, gira. E comunque, no, non è lo screenshot di nome, dicevo, te hai detto è presunto, non è. Ah, sì, presunto. No, specifichiamo. Poi domani ci arriva la No, di sicuro sapevamo solo che era stato daspato due volte. No, e ora ha preso il terzo, Sì, no, daspiamolo. Ha fatto come la Juve, non c'è due senza tre, capito? No? Ma è bene dasparla queste persone, perché dentro lo stadio non c'è. Ingegnere, tutto ok? No, è partito una metà morta. Dentro lo stadio non ci possono entrare, ma possono star fuori con una pistola. Continuiamo con i daspi. E continuiamo con la storia, se no mi infervoro. Signore, ti ho ascoltato. Un normalissimo tifoso della Fiorentina. Arrivederci. Continuiamo con la storia. Sweet Jane. Se non svieni prima. Dei Velvet Underground. Non mi schianta la vena. Comunque, artisti. Velvet Underground ci andava il Plin. Ci andava troppo. No, va bene. No, stiamo parlando del gruppo. Ah, ok. Uno dei riff più famosi della storia del rock. Un brano favoloso, con le stigmate dei santi e con tutte le carte in regola per diventare un hit assoluto. Era quello che voleva la casa discografica, perché l'esordio dei Velvet Underground di Andy Warhol e di Lou Reed. Bravissimo, vedi, ce l'avevo sulla punta della lingua. Vero. Ingegnere è stato bravissimo, vero? Bravissimo. Salutiamo il nostro ingegnere. Comunque, le cuffie rosse. Comunque, era quello che volevano i Velvet Underground. Comunque, che era stato sì amatissimo, ma da pochi. E anche i dischi successivi erano andati un po' malino. Così i discografici dissero: fate ciò che volete con il prossimo album, ma riempitelo di hit. Cioè, della serie. Che sia un. Datevi una mossa. Perché sennò ve se lascia a casa. Dissero proprio detta così, nel 70 con questo tono. Ma perché il produttore era mezzo romano, il produttore capito? Ovvio. Da Farnesina. E dopo aver chiesto il permesso a Jenny, praticamente i Velvet Underground incisero questo album. E infatti, per giocare su questo comandamento, i Velvet intitolarono Loaded l'album del 70, che fu riempito di grandi canzoni rock and roll, new age, I found a reason e un solo e potenziale hit da classifica, proprio Sweet Jane, popolata di quei personaggi strani che gravitavano attorno a Lou e alla popolata e alla Factory Waller, in quegli anni. In realtà i contrasti interni alla band ne avevano già decretato virtualmente lo scioglimento. Lou Reed abbandonò le registrazioni prima della fine per poi lamentarsi. Standing on the corner, suitcase in my hand, jacket's in his corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Riding a studs back at gym, you know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. Sweet Jane, oh, Sweet Jane, oh, Sweet Jane. I tell you something, Jack, he is a banker. And both of them save their monies. And when they come home from work, ooh, sitting down by the fire. The radio does play the classical music they jam. The march of the wooden soldiers, all your protest kids, you can hear Jack say, get in here. And other people say have to work. Just watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. Sweet Jane, Velvet Underground, Lou Reed, che se n'è andato, come avete capito, proprio alla fine. Esatto, lamentandosi. Era un po' impuzzolito, come si dice in gergo. Sì. Lamentiamoci. Nel frattempo abbiamo scoperto che la scaletta era stata ripresa dal computer del lavoro. Non so come mai. Del 92. Del 92. Questa potrebbe essere ridefinita come una metafora, come tipo la legge, la legge è uguale per tutti. Però, come la scaletta, però ognuno. Sì. Non si capisce perché. Va bene. Il file è quello, ma le scalette sono diverse. Quindi, ora, o sono io la notte mi sono svegliato. Sì. Non me lo ricordo. Sono andato nello studio dove lavori. Io ho fatto lo screenshot, ho fatto la scaletta da te. Gli hai urinato negli angoli. Pure no, che ne sei tu? Oppure no, con il Team Weaver. No. Andiamo avanti con. I'm 18. Che vuol dire, vabbè, patro? Dai, cioè magari. Ecco, infatti. Magari è una canzone di Alice Cooper. Sai di dov'è Alice Cooper? La signorina Alice Cooper. No, non lo so, dov'è? Detroit. No, mio figlio poteva morire. Detta così sembra. Era Firenze. Sì, l'ho vista la foto. L'ha visto, fantastico. Che mito. Detta così sembrava di Troia. Cioè no, Detroit. La città di Troia. No, Detroit. Detroit. Questa canzone è estratta dall'album Love It To Death. Viene pubblicata come singolo 3 mesi prima dell'uscita dell'album e divenne uno dei maggiori successi di Alice Cooper. La rivista Rolling Stones mise il brano al numero 482 nella lista delle 500 migliori canzoni. Vabbè, in fondo, dai. Di tutti i tempi. Dai, tanto già farne parte, via. Della serie Diamo. Però, insomma, dai. No, scherzo. Il gruppo thrash metal. Ingegnere, lei cosa ne pensa? Grazie. Pollice verso, sì. alla romana. Ne ripropose una cover nel loro album d'esordio Fistful of Metal del 1984. I Creed nel 98 resero omaggio a questo pezzo inserendolo nell'album The Factory. Facoltà. I'm making a stupid. Bravo, grazie. Ma thank you. I'm a Alice Cooper con I'm 18. I'm 18, che significa ho 18 anni. Ho 18 anni, sì. Magari. Vabbè, un anno in meno di me. Sì. Te garbere. Te garberebbe. Per gamba. E dai, eh. Ah, sì, mi hanno anche detto che dimostro meno anni di quello. Al Masa, il timo di conservatore, settimana scorsa gli hanno dato 30 anni. No, no, no, anche a te, anche no, a te. No, di carcere. No, no. Sì, 30 anni, sì, si sbagli, vale, no. 21 io avevo detto. Alla, 21. Alla casa del popolo a San Donnino te l'avevo detto. Pievaranco. Comunque. E la giovanità. Allora, riapriamo la rubrica Orni ad Rock and Roll. No, no. Cioè, no, mi deve spiegare. Vabbè, giustamente allora. Ah, la sì, prima rubrica una che volta, apro. Una volta che c'è una domanda interessante. È vero, anche perché diciamo è una domanda base fondamentale base? Che spiega che poi anche io ho una curiosità su il bello è che il bello lo sa qual è? È che ora magari non lo sa. Capito? Perché si è scordato. No, no, no, ti rendi conto, no, non lo so. Non so l'acronimo sinceramente. Non so cos'è NRD. Non lo sai quello, però c'è la storia dietro la parola nerd. Sì, quella la so anch'io. Quindi la dico io. Oh, dilla con la M, con la N, no, con la N, nerd, nerd. Ci fichiamo. Diciamo che in origine nerd era il secchione. Sì. Quindi quello che da noi è proprio il secchione. Quello intelligente, quello bravo, l'intelligentone solitamente bravo, rappresentato con bravo, occhiali, brufoli, pantaloni alti e colui che si e il lapis polo sull'orecchio, colui che lecca il cellaio della scuola e il golfino e colui che lecca i deretani, detto. Ma no, no, no, proprio il secchione, proprio quello bravo, che passa, quello bravo, quello bravo, quello dai, cioè, come io quando santo, quando andavamo a scuola insieme, io ero un secchione. Insomma, il secchione nel senso va, che secchione del sudice, che era uno di quelli che tirava i secchi. No, no, no, no, no. Anch'io ero un secchione. Sì. Sì. Chiudevo la scuola col secchio. Sì, senza dare le testate al microfono. Ha avuto un colpo di testa. Però. Poi invece si è trasformato questo termine. Gol, Mase. Sì. Palo gol. No, Jenny in vuoto. Si è trasformato, no? Diciamo, il nerd adesso è colui che è patito di film, serie televisive, principalmente fantascientifiche, e anche di anime, manga, cartoni animati, tutto ciò. Ma comunque è sempre comunque videogiochi anche. È sempre anche definito come persona intelligente, eh? No, più che intelligente è quello che passa ore e ore a seguire, comunque sia, diciamo, detta male, è quello che quasi rinuncia alla vita sociale per seguire queste cose. Le passioni dei videogiochi, anche tipo dei videogiochi, dei tipo io sono stato un po' nerd. Un pochino, un po', togli un po'. No, vabbè. Togli un po'. Non togli un po'. Comunque sia, anche colui che passa ore e ore davanti. Ma che fai esci stasera? No, non lo so, c'è una sessione. No, no, qualche volta ti diceva sì. E nel frattempo era lì. È lì che giocava. No, vabbè, ma scusa, ti chiamo io, aspetta un attimo. Ma se sono a casa, cosa devo fare? Tanto gioco. Cioè, e questo è il nerd. Come si dice? O gioco o do noi. Esattamente. Quindi colui che... No, o gioco non mi si vedete per un mese di solito lui. Perché? Se gioco non mi vedete. Ah, beh, sì, ovvio. E devo livellare il PC. Ovvio. Senti. Già questi dati tecnici sono offerti da... E poi magari spiegherò più avanti le terminologie delle parole nerd, perché cos'è livellare un PG in realtà. E lo spiegherò, ma lo spiegheremo più avanti. Va bene, PG personaggio giocante. Però ecco, non Perugia. A questo punto, come tutte le antipatie che nascono alla base e poi si solidificano in amicizie, vorrei tu... mi fai paura quando parti così, guarda. Vorrei che tu interloquissi con noi, con noi alter. Di soccer, ovvero come bene, noi ti chiediamo di fatto prima. Tu ci chiedi. Ma l'ho fatto prima. Ho già soccer non si può sentire. Soccer, infatti, soccer. Cioè è football. Il soccer gli... A proposito, tra le altre cose abbiamo tra di noi un componente del nuovo cast, Luke Skywalker. Ah, giusto. Vai Masa, esatto. Via col disco. Chiudi tutto, via, basta. Via, diciamo via, almeno via, che via. Disco è. Sì, loro sono Crosby, Stills, Nash & Young con Ohio. Che se l'ha fatto male. No, no, no, no, apposta, apposta. Dead in Ohio. soldiers and Nixon's coming. We're finally on our own. This summer I hear the drumming. For dead in Ohio. For dead in Ohio. For dead in Ohio. For dead in Ohio. I'm an poor. Oh, almeno abbiamo cambiato argomento in questo fuori onda. Ovvio. Non possiamo sì, dire niente. No, non possiamo dire niente. No. Andiamo avanti. Sì. Con la puntata. Sì, continuiamo sì. con la storia. La quinta parte del 1970. Sì, no, arrivo, eh. Non capisco Davide. Che è un nostro amico. Perché mi scrive sto? Vabbè, dopo fammela vedere. Dimenticavo, finita la partita, a dopo. C'è. Ho scritto "sce" senza porre, sì, ovviamente da fare un salto nel greppo. Però questo è un messaggio reale di un nostro amico, capito? Luke, fra parentesi, faccia quella linguina. Ma cosa vuol dire? Me l'ha scritto sul gruppo del calcetto. Ce l'ha falsato nel greppo. Ce l'ha falsato nel greppo. Chi ha mandato un pallone fuori? Ciao Bella. A parte che non giochiamo stasera, giochiamo settimana prossima. Ma si gioca settimana prossima? Sì. Sicuri? Sì. Te vieni? Sì. Non so. Sì. Vabbè, sì, no, facciamo un po' come si pare, Sì. Voglio dire. Sì. Se ce ne manca uno, lo diciamo nella puntata, così magari. Almeno qualcuno si vuole unire. Qualcuno sente. Abbiamo finito i due minuti di ragazzi di Foiano. Vabbè, i nostri due minuti privati, andiamo avanti. Continuiamo con Southern Man di Neil Young. Che è un brano musicale scritto appunto da per un uomo del sud, questo musicista canadese, contenuto nel suo album After the Gold Rush. Le parole che compongono il testo di Southern Man sono una vivida e sentita descrizione del razzismo nei confronti dei neri nel sud degli Stati Uniti d'America. Polemiche, come ogni forma di razzismo vuole, si trascina le polemiche. Il gruppo Southern Rock, Lynn Skynyrd, scrisse la celebre canzone Sweet Home Alabama, celeberrima che tutti conosciamo, in risposta ai brani Southern Man e Alabama, altro pezzo di Neil Young fortemente polemico nei confronti del razzismo degli Stati del Sud, incluso nell'album Harvest del 1972. Nonostante nella canzone degli Skynyrd Young stesso ha sempre dichiarato di essere un grande fan sia di Sweet Home Alabama che di Ronnie Van Zant. E invece? Cioè, un po' come da noi, se Nord e Sud, due cantanti famosi, si scrivessero le canzoni per infamarsi. Esatto, più o meno sì, esatto. Il succo è questo, ecco. Comunque no, ciò non toglie che sono due grandissime canzoni. Beh, chiaramente. Neil Young, Southern Man. L'uomo del sud di Neil Young. Southern Man. Ah, non so, sì. Sì. Insomma, beh, a chi tocca? Come stai? Ragazzi, facciamo un po' come vogliamo. Vediamo. Dai, su. Beh, mi sembra si è fatto tutta la puntata come vogliamo. No, la facciamo sempre come vogliamo, però oggi abbiamo un po' divagato in altri discorsi. Sì, micidiale. Discorsi rock. Bravo. Andiamo avanti con My Sweet Lord, primo singolo di un singolo Beatle. Sembra uno scioglilingua, sì, però bravo, di un singolo. Esatto. Singolo. A raggiungere il primo posto delle classifiche americane, Harrison lo scrisse pensando a Krishna, in cui era credente, dopo aver scoperto l'India e l'induismo. Fa parte dell'album All Things Must Pass, che dicevamo prima, titolo emblematico nel suo fatalismo per uno che aveva fatto parte del gruppo più celebrato della storia. Quando uscì vendette addirittura un secchio, prendi un secchio. Oltre 6 milioni di copie. 6 milioni di copie. Ranocchie? Lo sai qual è il bello? Non fumo da 3 ore, tipo. La gente, la rana parlante. Facciani. La rosa. Ingegnere c'è chi gori? La gente e i critici si accorsero di aver sempre sottovalutato Harrison dopo aver ascoltato questa canzone. Beh, chiaro. Come non ho capito. My Sweet Lord. No, non ho capito. Sottovalutato? Harrison. Quando faceva parte dei Beatles. Cioè, c'è chi c'era? Paul McCartney c'era. No, siccome è tutto improvvisato, non ho una scaletta. Allora non avevo capito bene, volevo risentirlo. Ok. Grazie. La rileggo, se no. No, vai, rimetti, vai. La rileggo. Primo singolo di un Beatle. My sweet Lord, Krishna. No, cos'è? Lo dice una canzone. Ah, Hare sì, Krishna, sì. Non ho sentito, non ascoltavo. Krishna, che come Krishna, sicuramente Valerio Nanotti saprà, è il dio. Non lo so. Della perseveranza. Cos'è? Non dio lo so. Dio indù. Dungeons and Dragons. Sì. Neutrale buono. No, è uno delle migliaia di divinità induiste. Che, no, quella con. No, te, è no, quella è Jenny. Con nove mani è Jenny. Sta così. Andiamo avanti. Andiamo avanti. 20:05 in poi in ritardo. Infatti, l'ultima. Per forza, ti abbiamo lasciato il tuo angolino nerd. O il nerd rock and roll. Il tuo angolino di nerd. Di nerd. Ti racconto di nerd. Mi sembravi una persona di nostra conoscenza. Questa affermazione. Castellani. Bravo. Castellani è mollo. No, un nostro amico di Empoli. Lo salutiamo. Ciao, vabbè. Marco. Ciao, Marco. Compagno di. Vabbè. L'hai visto anche te, è forte. Sì. Compagno curvaiolo. Curvaiolo come noi. Comunque, è quello capelli corti sotto, sì, sì. Quello del vino personale, sì. Grande. Grande. La lanciamo direttamente. No, no, la descrizione è bella, dai. Ok, me la devi tradurre. Ah. I heard it struggle the grapevine. Sì, grazie. Allora, grapevine. Perfetto. Solo il sabato. Grippo. Grapevine. È l'uva. È l'uva. Esatto. E figli. Esatto. Ecco, già quando c'è l'uva è buono. È buono. È buono. Segno buono. Il resto mi è totalmente comunque oscuro. Una canzone scritta da Norman Whitfield e Barrett Strong. No, è impossibile. Perché? Perché è The Credence. Quindi la possono aver scritta loro. Vabbè, una. Attenzione! Attenzione! Una. No, fermi. Ragazzi, cioè. È vero, però. Non è nominato John Fogerty. È vero. Però. L'hanno scritta Whitfield e Strong. Leggi assolutamente. Assolutamente. Nel 66. Esatto, per la Motown Record nel 66. Resa famosa da Marvin Gaye. Addirittura sempre. Marvin Gaye, addirittura. Oh mio Dio. Senti. In un singolo pubblicato nel 1968. Oltre ad essere stata interpretata da varie volte da artisti della Motown. La canzone è stata oggetto di una serie di cover, tra cui i Creedence, appunto, e la versione che vi faremo ascoltare, che ne hanno fatto un'interpretazione di 11 minuti per il loro album del 70, Cosmos Factory. Noi gliela facciamo ascoltare tutta, no, però. Tutta no. Okay. Ah, sì, noi vi salutiamo. Nelle biondo, ingegnere, vi salutiamo sulle note di questa. Salutiamo l'ingegnere Matteo alla console. Esatto, con le sue cuffie rosso ingegnere fuoco. Ingegnere in cosa? Non lo so, però quelle cuffie sono da ingegnere. Metà meccanico. Hai detto che sembrava avere dillo. Metà meccanico. Ragazzi, noi vi salutiamo. 20:07, sono il patro, davanti a me Luke, accanto a me il nanno. Sopra di noi Jenny. No, sopra di noi regna. Chi sono? E naturalmente deciderà lui se tornare in onda. No, torneremo in onda dai 19 alle 20, come sempre, se ci volete ascoltare. Stasera Sugar Night, domani piazzata. Sì, come sempre. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.